si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno, buona domenica a tutti. Ben ritrovati col Si può fare, insieme fino alle 10, 800 24 0024 per chiacchierare insieme a noi, per riepilogare le notizie di questa settimana e dove è possibile parlare di qualche Si può fare. Carlo, oggi Milano-Monterosa, come butta? Ma sempre un po' nuvolosetto, però potrebbe migliorare. Un po' come tutta Italia, oggi nuvolosetto, ma potrebbe migliorare, però domani piove. Ah, quindi... pensavo che dicessi in generale, un po' come tutta Italia, che si sta così, però potrebbe migliorare. Noi speriamo sempre che possa migliorare, è un si può fare anche nel meteo questo. Assolutamente. Nel senso che giustamente noi diremmo piove, ma prima o poi smette. Oh, allora, ne abbiamo parlato un pochino anche ieri, anche oggi voglio sottolineare, perché questa è veramente una straordinaria notizia, insomma i giornali si stanno riempiendo delle foto dei primi inviati che sono arrivati, per esempio La Stampa ha inviato Giordano Stabile a Palmira, perché questo è un momento simbolico molto importante. La riconquista della cultura. La riconquista di una città che era una roccaforte dell'ISIS, non soltanto per la questione del sito archeologico, ma perché era una base per andare a conquistare Damasco. Niente, sono arrivati prima i russi. Questo ricorda un po' qualcosa. La liberazione, la seconda guerra mondiale. Parallelismi a parte, sì, sono arrivati i russi. C'è un corpo speciale d'elite, 250 uomini russi. Proprio a Palmira Assad sta celebrando la riconquista da parte del suo esercito di questa città e insomma l'ISIS ha subito una pesante sconfitta ed è importante anche perché c'era un motivo culturale anche da parte dell'ISIS nel decidere di prendere Palmira o addirittura di decidere di distruggerla, come a cancellare la cultura, cancellare un altro tipo di pensiero, quindi altrettanto simbolico è la riconquista dalla parte culturale. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, anche stamattina cerchiamo un personaggio della settimana, mi raccomando, cerchiamo un personaggio. Il primo indizio che vi vado a dare per vincere anche oggi è questo: è un leader, il personaggio è un leader, quindi aguzzate l'ingegno, cominciamo l'epilogo della settimana, vai. Abbiamo sempre detto che di fronte agli italiani noi siamo un governo diverso dal passato. Il ministro Guidi non ha commesso nessun tipo di reato, non ha fatto nessun illecito, ha fatto una telefonata che lei ha giudicato inopportuna, lei per prima, e effettivamente era inopportuna. E questa è la frase di Renzi sulla questione del ministro Guidi. Ricordiamo che le ultime notizie sono che la procura di Potenza sta indagando per disastro ambientale. Non vorrei che ci si distraesse solo sulla questione del ministro Guidi per dimenticarci che l'ipotesi di reato è abbastanza grave, disastro ambientale. Poi, e soprattutto che ci si occupi del disastro ambientale al di là delle intercettazioni. Esatto, questo sta facendo la magistratura, ma lo stanno facendo un po' anche i giornali, anche se poi i titoli sono tutti concentrati sulla vicenda del ministro e della mozione di sfiducia nei confronti del governo che... ha presentato il Movimento 5 Stelle. Sentiamo il ministro Boschi tirata in ballo nelle intercettazioni dall'ex collega Guidi. Il ministro per i rapporti col Parlamento, cioè io, fa un lavoro che è quello di portare in aula tutti i provvedimenti del governo, tutti, e quindi il ministro per i rapporti col Parlamento, cioè io, da regolamento deve verificare e autorizzare tutti gli emendamenti del governo. La Campa Rossa è un progetto strategico per il Paese che prevede molti nuovi occupati nel Mezzogiorno e quindi lo rifermerei domattina. Lo dimostra il fatto che in tanti hanno votato quell'emendamento. Io firmo emendamenti tutti i giorni, ne ho firmati a decine. Oh, l'Italia è questa, ma l'Italia è anche qualcos'altro, è un'Italia che assomiglia a Si può fare, è l'Italia dove a Ferrara è entrato in azione e ha fatto il giro dei siti, dei social, questa immagine è tratto in azione un gregge di pecore che il comune ha ingaggiato per tosare l'erba. Niente più tosa erba che consumano gasolio. Perché ci ascoltano, perché ne parliamo sì, spesso. Noi l'abbiamo intervistato, esatto, questo qua, esatto. Pastore bresciano. Ecco qua, sentite il rumore del nuovo tosa erba tutto naturale. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone, come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita sicura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno di una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento, pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina. E ormai quando sentiamo Frankie High Energy vuol Tacca. Dire che bisogna sudare, perché c'è da pedalare, c'è e da pedalare. C'è da parlare di biciclette. E noi non potevamo non salutare questa notizia che non si può fare nel mondo, che viene da Odense, una cittadina della Danimarca, che il prestigioso quotidiano The Guardian ha stilato una classifica delle città dove si vive meglio nel mondo, e si è classificata al primo posto Odense, una città che tra le caratteristiche del suo stile di vita annovera un grande numero di ciclisti. Pensa che quasi il 90% dei bambini vanno a scuola con il bike to school in bicicletta, e noi abbiamo convocato un italiano che vive da quelle parti, è Federico Triolo, è un ex studente di economia e un dottorando, credo quindi che stia ancora studiando, viene da Bergamo. Buongiorno Federico. Buongiorno a tutti e buona domenica. Buona domenica. Buongiorno. Allora, ho detto bene, sei ancora uno studente, cioè nel senso sei un ricercatore, cosa fai? Un dottorando? Sono nel processo di cercare un dottorato, non ancora, speriamo presto. È un processo complicato questo, trovare un dottorato a Odense? È molto lungo purtroppo, sì. Mm. Ma tu lo stai cercando in Danimarca? In Danimarca come primo paese, però anche sto guardando anche un po' altrove, diciamo. Ok, e in Danimarca che cosa hai studiato? A Odense in particolare hai studiato, no? Esatto, sì. Il mio master era Marketing, Globalization and Culture. Ah, e come è nata l'idea di andare a studiare proprio in questa città che non è famosissima in Italia, se uno pensa ai paesi del nord, Copenaghen, Amsterdam, però Odense, come mai? Bella domanda questa, è stato un po', diciamo, un caso fortuito, perché dopo la triennale stavo cercando una specialistica all'estero e navigando un po' su internet avevo notato che la Danimarca offre corsi universitari gratuiti, e quindi poi cercando prima Copenaghen, un po' le altre università, che ho trovato anche questa buona università Odense, ho detto fatto 30, fatto 31, mandiamo l'application anche qua e vediamo un po'. È stato fortuito, ecco. E quindi non sapevi che sarebbe diventata la città europea con le migliori condizioni di abitabilità? Assolutamente no, facevo come prima. Ma ci confermi questo? Come si vive a Odense? Allora, la qualità della vita secondo me è molto molto alta, soprattutto arrivando dall'Italia, e come avete detto io, origini di Bergamo. Diciamo che la differenza sostanziale è che qua c'è un rapporto qualità della vita, quindi lavoro, tempo libero, molto più elevato come rapporto, ecco, rispetto a una media italiana. Allora Federico, resta in linea, noi dobbiamo dare le informazioni sulle strade e autostrade italiane dove si va per lo più in macchina, invece voi andate okay. per lo più a Odense, perché ho sentito bene, tu utilizzi questo accento, non Odense, ma Odense. Sì, ti ho messo un po' anch'io. perché... in danese si pronuncia più Odense. Esatto, esatto. Ah, ma è più tipo Odense. Odense, è una cosa del genere. Adesso... Esatto, con questa un po' mangiata. Adesso ci allarghiamo, un po' bergamasca, eh? Quindi da questo punto di vista ti sarai trovato bene, Federico. Voi andate per lo più in bicicletta, 600 km di piste ciclabili in una cittadina di quanti abitanti? Perché non è grandissima. Quanti abitanti? Poco meno di 200.000. Ecco, cioè, non è neanche piccolissima, però 600 km di piste ciclabili noi non ce l'abbiamo, credo, in tutta Italia. Traffico, torniamo tra un attimo. Pantera col TH, l'IRP di Infracom Italia, anche in cloud. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Passeggiando in bicicletta accanto a te, pedalare senza fretta la domenica mattina, fra i capelli una goccia di brina, ma che faccia rossa da bambina, fai un fumetto respirando. Vabbè, siamo tornati, non so se possiamo reggerlo il passaggio da Frankie High Energy a Cocciante, eh? Possiamo reggerlo? Sì, possiamo reggerlo. Giusto per cambiare anche l'intonazione musicale quando parliamo di bicicletta. Federico Triolo in collegamento da Odense, dottorando in ricerca, anzi sta cercando un dottorato nel mondo, quindi se qualcuno offre dottorati nel mondo, potete tramite noi contattare Federico. Stavo parlando della bicicletta, no? È vero che ci sono 600 km di biciclette a Odense, città che si è meritata il primo posto nella classifica della qualità della vita secondo il settimanale, il quotidiano britannico The Guardian. Esatto, sì. Confermi. Esatto, sì, okay. È un'ottima risposta. Ma noi vogliamo sapere come si vive a Odense. Però io voglio sentire di questa cosa della bicicletta. Ma tu la usi la bicicletta, Federico, o no? Qua diciamo che è proprio il mezzo principale, un po' per tutti. No, perché siccome hai risposto sì così secco, dico magari questo usa il SUV per andare a. Sono anche di poche parole i danesi, spiegaci questo. No, beh, in realtà la cultura è un po' diversa, sicuramente di primo approccio sono un po' più difficile interagire. Mm. Senti, però Federico, scusa, ma quindi, allora, torniamo al discorso, bicicletta, tu usi la bicicletta? Sì, no? Allora, qua sì, ma anche secondo delle statistiche 9-10.000 danesi la utilizzano. E diciamo che qua è un po' il sistema principale per muoversi. Nonostante il freddo che c'è, credo, all'inverno. Esatto, dalla stagione, però è una cosa che all'inizio sembra bizzarra, soprattutto per un italiano che è poco abituato. Abbastanza poco abituati. Però poi diventa una specie di norma condivisa, pertanto... A prescindere davvero dalle condizioni climatiche, anche perché fa freddo, tutti in bici. A me ha colpito in particolare una cifra, che è l'81% di bambini che vanno a scuola in bicicletta. Quindi io mi sono immaginato le scene la mattina all'entrata di scuola, fra le 8 e le 9 e il pomeriggio all'uscita, di tutte queste frotte di bambini che vanno in bicicletta. Questo dovrebbe essere una cosa abbastanza visibile. Te ne sei accorto? Esatto, questo è pazzesco. Poi tra l'altro io abito proprio vicino a una scuola, pertanto mi capita spessissimo la mattina e tante volte addirittura i bambini vanno da soli. E mi ricordo che il sindaco proprio di Odense, un certo Eriksen, durante il suo intervento all'apertura delle scuole aveva proprio consigliato alle mamme di lasciare andare i bimbi a scuola in bici, in maniera tale che potessero accendere il cervello o comunque essere più svegli attivi durante le lezioni. Pertanto, già belli frizzantini la mattina, perché la pedalata aguzza anche l'ingegno. A proposito di aguzzare l'ingegno, facci ricordare l'indizio per il personaggio della settimana che andiamo cercando, ascoltatori, all'800 24 00 24. Stiamo cercando un leader che questa settimana ha una notizia che lo riguarda, quindi chiamate anche oggi in palio i biglietti, il catalogo della mostra di Miró al MUDEC di Milano. Federico, dici una cosa sorprendente che riguarda la qualità della vita a Odense, tanto appunto da meritarsi questa posizione in questa classifica. Allora, vi dico, secondo me è un fatto molto carino. Per gli studenti internazionali, ma anche quelli danesi, l'università al momento, diciamo, c'è anche un accommodation office che si prende cura di trovare la sistemazione per ogni studente. Sì. E per ogni studente che accede attraverso l'università gli viene regalata una bici, che è un fatto proprio simpatico. Ah, beh, anche, direi oltre il simpatico, gli viene regalata una bici. Esatto. E questo è quando si parla di incentivi, sì. I famosi incentivi, come mai vanno tutti in bici se già la bici te la regalano? Ma una bella bici o una bici di cartone? No, è carina, è bella. Mm. Proprio dalla serie è voluto la bicicletta, ora pedala. Ma le rubano le biciclette in Danimarca quanto in Italia, che una bicicletta, beh, per quanto regalata dall'università, ti dura una settimana? Sono sincero, sì. Le rubano. Sono proprio... C'è un mercato nero delle bici. Ah, vedi? Quando in realtà invece la Danimarca è un paese molto molto sicuro. Però su questa cosa della bici, essendo un mezzo di trasporto così fondamentale, evidentemente va... Non me l'aspettavo comunque, non me l'aspettavo che rubassero le biciclette a Odense. Non è che possono essere proprio perfetti, no. Nemmeno loro, evidentemente. No, vabbè, ma... Odense comunque... Di. Dicevo, a Odense è ancora in maniera limitata rispetto a Copenaghen o Aarhus, che sono un po'... le prime città per estensione in Danimarca. Ah certo, essendo voi in Danimarca, uno di Odense può dire ma noi mica stiamo a Copenaghen che lì rubano tutti, è quello un po' il concetto, giusto? E comunque ricordiamo che Odense è anche la città nativa di Andersen, Hans Christian Andersen, esatto. Lo scrittore di fiabe, quindi lo scrittore della Sirenetta, della Principessa sul Pisello, del Brutto Anatroccolo. Però sono sempre curioso di questa Danimarca perché c'è un po' il mito, non so se ricordi una serie TV che si chiamava Weeds, quella che parlava della casalinga alla quale moriva il marito e si metteva a produrre marijuana e a cercare di sbarcare il lunario vendendo marijuana, e anche loro hanno il mito della Danimarca come il posto dove si vive meglio al mondo. Questo... È rimasto senza parole, Federico, non lo conoscevo, non ne sapeva assolutamente nulla. Federico, grazie, buona domenica e in bocca al lupo. I politici vanno in bicicletta, si fanno fotografare, è alla moda andare in bici anche da questo punto di vista? Scusa, non ho sentito. No, ti chiedevo se anche i politici vanno in bicicletta, il primo ministro va in bicicletta? Sì. È successo qualche giorno fa che c'era un quotidiano danese, The Copenhagen Post, sì? Che ha tratto la principessa a portare a scuola il figlioletto in bici. Beh, se lo fa la principessa è straordinario. Grazie Federico Triolo, in bocca al lupo, sì. Grazie mille, ciao, buona domenica. Allora, ascoltatori, alla ricerca di un personaggio della settimana, e se volete commentare anche la, non so, Odense, se siete mai stati, se abbiamo scoperto che rubano le bici, quindi è vero, c'è del marcio in Danimarca. Giovanna da Torino, buongiorno. Buongiorno a voi. Prego, su cosa voleva intervenire Giovanna? Sì, volevo intervenire sul vostro quiz, il sì. Personaggio, il leader. Chi è? Secondo me è il sindaco di Riace. Mimmo Lucano, nella persona di Perché, qual è la notizia? La notizia è che è stato inserito in una lista di 50 persone influenti come carisma e leader, se non erro, perché per le sue capacità anche di accoglienza nel paese dei migranti e la sua capacità appunto di inserire queste persone, certo, con la popolazione, la sua capacità carismatica e di leader nel gestire questa, bravissima, situazione critica. Certo, come no, la sarà notizia anche, è bellissima, sarà anche nostro ospite alle 9:10 Domenico Lucano per questa che è un'altra classifica di Fortune che lo ha inserito appunto l'unica personalità italiana influente nel mondo. Ma stiamo parlando insomma di fianco a Obama, a Papa Francesco, cioè, proprio le 50 persone più influenti al mondo. Però non era lui il personaggio della settimana, è un altro leader che andiamo cercando. Grazie Giovanna, grazie mille. Ci sentiamo subito. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10:30 con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. ascoltaci anche in digital radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buona domenica a tutti. Eccoci qua, cari ascoltatori, tra poco riprendiamo con il riepilogo delle notizie di questa settimana. Adesso però, ascoltatori, perché stiamo cercando un personaggio della settimana e vediamo se qualcuno si è avvicinato. Che è un leader, è giusto? Un leader. Poi dobbiamo dare il secondo indizio. È questo qua. Allora, Aldo dalla provincia di Cuneo, buongiorno. Ciao. Ciao. Buongiorno. Aldo. Ciao. Dici tutto. Allora, io penso che sia la regina Elisabetta, perché questa settimana ci saranno i festeggiamenti in suo onore, perché ricorrono tutta una serie di numeri particolari. Ah, ecco, no, perché con la regina si festeggia sempre e c'è sempre qualcosa che ricorre. E i numeri sono sempre più grandi. È vero, i numeri sono sempre più grandi. E quindi Aldo, eccolo qua, non era lui. Comunque era sono i 90 Niente. Anni della regina Elisabetta. Ancora, ma l'abbiamo già fatti. Immagino che siano quelli. No, ma l'abbiamo già fatti quelli, abbiamo già fatti. Forse continua. No, no, il 21 aprile del 1926 è nata e quindi il 21 vedi. Aprile effettivamente mancano ancora 19 giorni, però ero impreparato sul capitolo monarchia. Aldo, complimenti per questa notizia che ci hai dato, ma in effetti non era il personaggio, è un altro, grazie, il leader che andiamo cercando e che ha una notizia che lo riguarda questa settimana. Se indovinate all'800 24 00 24 vi portate a casa i biglietti e il catalogo della mostra di Miro al MUDEC di Milano. C'è Antonio che chiama da Bari, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho chiamato per dare il mio contributo alla Odense, in sì? Danimarca. Sì. Io parto da un mio presupposto, che la civiltà di un popolo si giudica anche dall'igiene dei bagni pubblici. Comunque. Vero, io, non è male questa. Io sono stato a Odense oltre 20 anni fa, con un camper. Sì. E ci siamo fermati in una piazzetta per sostare, e quando siamo andati ai bagni pubblici siamo rimasti sbalorditi, per noi italiani. Cioè, erano bagni che venuti erano gratis, e poi c'era di tutto, sapone per la doccia, gli asciugamani, tutto in igiene proprio... Tutto organizzato, tutto pulito, tutto preciso, tutto gratis. Tutto preciso, e poi piste ciclabili dappertutto, sì. Sia tra le città, sia all'interno delle città, proprio una cosa... Quindi lei conferma... La cosa che ci ha sbalordito proprio i bagni. È stata l'igiene... E la completezza di tutti gli accessori per i bagni pubblici gratuiti per tutti. Però perché... E come mai ha deciso di tornare e non di rimanere in Danimarca? Vabbè, perché io avevo famiglia qua e lavoravo qua, quindi perché io ho 74 anni, quindi allora avevo sì. 50 anni. Non quindi... basta un bagno pubblico pulito, ci vuole altro per trattenere Antonio da Bari. Io lo vedo perché abito al sud e quindi mi accorgo quando la differenza dei bagni pubblici già in Italia, da un nord sì. al sud. Quindi... Va bene, abbiamo capito Antonio, grazie. Comunque questo vuol dire che già 20 già anni, 20 fa, anni Odense... fa Odense aveva dei bagni pubblici straordinari. Ed era quindi una città con una certa qualità della vita, un certo savoir-faire. Del resto queste cose non si inventano in poco tempo. Massimo da, stavo per dire Mimmo, ma Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, arriverà fra poco. Massimo da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma secondo me potrebbe essere Aung San Suu Kyi. Perché? La birmana. Sì. Beh, perché è diventata nel ministero dopo tutto quello che ha subito. Prima di tutto, alle ultime elezioni aveva avuto il 60%, mi sembra, di voti, perché bisogna salire del partito. E poi credo che abbia preso qualche carica nel governo. È vero, sì, sì. No, ma c'è notizia, io adesso non ricordo esattamente cosa è successo. Sì. Infatti, Alessio, è evidente dalla nostra titubanza che il personaggio non è questo, però siamo contenti di averlo ricordato e di aver ricordato la notizia che lo riguardava. Che nel frattempo abbiamo recuperato, gli hanno dato un ministero al governo, a Aung San Suu Kyi, quindi diciamo che il suo ruolo è stato riconosciuto di nuovo, ancora di più, e quindi siamo felici per questa notizia importante. È certamente un leader nel mondo, è un leader. Non era lei il nostro personaggio della settimana che andiamo cercando? Vogliamo darlo a questo punto un altro indizio? Volentieri. Sì, diamolo, vai. Il nostro personaggio è sotto attacco, quindi cari ascoltatori, un leader è sotto attacco. 800 24 00 24 Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. E allora, questa volta però è un non si può fare, non si può proprio fare questa notizia della settimana che andiamo a recuperare è... Non si può ottenere la verità dall'Egitto sul caso Regeni. Questa settimana la mamma e il papà dello studente ucciso in Egitto, ormai quanto tempo fa? Sono quasi 3 mesi, al 25 gennaio, se non ricordo male, in circostanze ancora da chiarire, ma con un ruolo, a questo punto sembra quasi di poterlo dire chiaramente, dei servizi segreti o dello Stato, delle forze dell'ordine, comunque delle autorità egiziane. I genitori hanno tenuto una conferenza stampa alla Sala Nassiriya del Parlamento italiano per chiedere, insomma, una mano alle autorità ancora di più. Sentiamo la mamma di Giulio. Io non mi faccio nessuna ragione, perché non è giusto che succeda questo a nessuno. E tanto, ma proprio guardi, alla peggior persona che esista al mondo, io non augurerei, credetemi, quello che è successo a mio figlio. Restiamo nell'ambito internazionale, perché questa settimana ha fatto notizia ancora una volta, ormai è la norma, Donald Trump, il candidato repubblicano alle primarie, appunto. Un altro, direi, sarebbe meglio non fare, se si può dire. Sarebbe meglio non fare. Beh, se l'è presa, ma poi ha corretto subito dopo. Sì, la correzione non mi sembra molto migliore. No, però se l'era presa con una fetta un po' troppo ampia dell'elettorato, tutte le donne praticamente. Bisognerebbe punire le donne che abortiscono, aveva detto. Poi ha corretto, sì, dicendo no. Il problema è che l'aborto è legale negli Stati Uniti, quindi bisognerebbe punire. Ho capito. Cambi la legge. Certo, quello che vuole fare, se diventa presidente, può cambiare la legge. Sentiamolo. The answer is that there has to be some form of punishment for the woman. Yeah, there has to be some form. I am pro-life. What's that with mean? Exceptions. I am pro-life. I have not determined what the punishment would be. Why not? I am pro-life, punishment. Si è capito abbastanza bene. Pro-life, ma anche pro-punishment, direi il signore. Tutte e due. Obama, sentiamo Obama nella settimana nella quale c'è stato un importante vertice sul nucleare a Washington. Obama ha detto: abbiamo ridotto molto i rischi, ma la minaccia del terrorismo nucleare rimane. Questo è un tema importantissimo. In short, everybody has been participating, and by working together, our nations have made it harder for terrorists to get their hands on nuclear material. We have measurably reduced the risk. But as we discussed at last night's dinner, the threat of nuclear terrorism persists and continues to evolve. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Kept on falling short. Allora, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. 800 24 00 24, cari ascoltatori. Intanto, se anche voi come Antonio da Bari siete stati a Odense e ci confermate la grande qualità della vita di questa città, no? In realtà abbiamo... E dei bagni pubblici. Abbiamo già avuto una bella conferma chiacchierando con uno studente italiano che vive lì e ci ha spiegato come è stato possibile che questa cittadina si sia guadagnata la prima posizione, the top of the world, nella classifica della qualità della vita stilata dal quotidiano britannico The Guardian. Si va in bicicletta a Odense, E possiamo ricordare forse che prima non l'abbiamo detto che in realtà è stato un progetto questo di Odense, non è che così casualmente in Danimarca tutti vanno in bicicletta per i fatti loro, cioè che tra il 99 e il 2002 il comune ha proprio imposto e ha detto: noi vogliamo una crescita del 20% dei ciclisti e una riduzione del 20% del numero di incidenti stradali che coinvolgono biciclette, e quindi hanno investito 20.000 corone danesi e si sono messi a farlo, quindi si può fare, se ci si mette a farlo. Esatto, e noi vorremmo tanto che in vista delle elezioni amministrative nelle città italiane si sentisse parlare un po' di questo e non degli scazzi, possiamo dirlo, tra la Meloni e Bertolaso, tra Parisi e... Stai proponendo il sindaco di Odense che si candidasse a Roma, visto che si candidano tutti, manca giusto lui. No, si parla pochissimo degli argomenti. Vero, hai ragione. Si parla molto dei candidati, molto del posizionamento dei partiti. E di quello che hanno fatto prima, di quello che vogliono fare ora. E così non va bene, non va assolutamente bene. Ascoltatori, vi aspettiamo all'800 24 00 24, anche perché stiamo cercando il nostro personaggio della settimana, che è sotto attacco, abbiamo detto. Ed è un leader. Francesco da Lecce, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sì, ovviamente io ho chiamato per questo, ma sono d'accordissimo con il collega di Bari, anche se Bari-Lecce, il derby, quanto ha detto sulla sicurezza, sulla pulizia, eccetera, eccetera. Però, secondo me, quello che sta ricercando è il nostro benamato Renzi. Perché benamato Renzi, Francesco, come personaggio. Perché? Perché? Ma perché sia per quello che avete detto prima e soprattutto l'ultimo indizio, perché ha detto che siamo sotto attacco, non vedo quale attacco in una democrazia. Quello è un termine prettamente giusto, diciamo, è vero, non ha senso parlare di attacco. La stampa ti critica, c'hai un ministro che si è dimesso, bisogna accettare, comunque, bisogna accettare, bravo, è vero, bisogna accettare assolutamente, non esiste questo termine sotto attacco. Francesco, diciamo che la tua telefonata, più che rispondere al personaggio della settimana, avevi voglia di dire questa cosa, hai fatto bene a dirla, giustamente, perché però... È il motivo per cui chiediamo il personaggio della settimana, di modo che ognuno possa anche raccontare quella che secondo lui è la notizia della settimana, ma non è il nostro personaggio. Non era lui. Era un po' un trappolone, perché effettivamente sono anche state le parole di Renzi, ma comunque il nostro personaggio resta sotto attacco. Grazie Francesco anche per esserci caduto e così per averci chiamato. Andiamo con Paola che chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Prego. E il mio personaggio era Fidel Castro, il leader massimo. Perché? Però sotto... mi avete un po' depistato con l'ultimo indizio. Col sottoattacco. Tu sei partita dal leader. Leader sicuramente, perché lui è il leader massimo. E qual è la notizia legata? La notizia è l'incontro di Obama e fratello, in realtà Raul Castro, quindi la riapertura dei rapporti tra Cuba e l'America. Sì. E Fidel però poi ha mandato una smentita sulla riapertura reale di questi rapporti, dicendo con cautela, con giudizio, e soprattutto era la settimana scorsa e quindi ahimè non è il personaggio che abbiamo scelto. Siamo rigorosissimi su questo, la notizia deve essere di questa settimana, se no non sarebbe il personaggio della settimana. Sto scherzando, però nel regolamento c'è un buco, perché con Pasqua in mezzo potrebbe essere che ci può stare, quindi accettiamo assolutamente la risposta, ma non è la risposta esatta. Ma ti ringraziamo per aver chiamato, mi piaci molto quando mi sei notaio, Carlo, moltissimo. Grazie da Viareggio, buongiorno. Buongiorno. Grazie. Grazie, sì? Grazie. Sì, sono io. Sì. Avevo scelto Beyoncé, però avevo sentito una definizione in maniera sbagliata. Avevo capito supertacco. Supertacco? Questo è molto interessante, però. È molto interessante. Dove ci porta questo tacco? Grazie, racconta. Il tacco mi portava a Beyoncé, però io stavo facendo le faccende domestiche e ho sentito coi tacchi? Coi tacchi stavi facendo le faccende. Ecco, invece era sotto attacco. Sì. Ma raccontaci questa storia dei tacchi di Beyoncé a questo punto. Perché in uno show ho letto che è caduta a causa dei suoi tacchi. Sì, anch'io ho letto qualcosa, non sappiamo bene cosa abbiamo letto. Mi sento in colpa a questo punto perché io che non ho letto. Che ho sentito male perché facendo le faccende. Ma forse io l'ho pronunciato male. Forse anch'io l'ho pronunciato male, quindi mi prendo la responsabilità. Diciamo così, diciamo che se nessuno indovinerà il personaggio della settimana, io voterò affinché il premio vada a lei, signora, assolutamente. Però non è il nostro personaggio. Sono appassionata d'arte, tra l'altro. Quindi. Va bene. Grazie mille. Non era Beyoncé. Adesso facciamo ancora un paio di ascoltatori, allunghiamo questa carrellata di risposte oggi, visto che ci sono tante chiamate e per ora nessuno che ha indovinato. Paolo da Torino. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Io ho pensato a Francesco Totti. Francesco Totti, sappiamo chi è, perché, personaggio della settimana, perché? A me era venuto in mente per il capitano, leader, e poi secondo indizio in effetti non c'entrava molto, però... Sotto attacco perché non gioca. Visto che è un attaccante, era il sotto che mi lasciava un po' perplesso. Giustamente lei invece ha sentito è in attacco, l'abbiamo detto proprio male questo... Non era il personaggio che abbiamo scelto, ma la ringraziamo molto di aver chiamato. Anche se era molto calzante, sì, perché secondo me anche lui non sta giocando. Ha problema con Pallotte, con l'allenatore, c'è da capire. Però vedi, anche in questo caso c'erano dei bei trappoloni e il personaggio di Paolo era buono, quasi quanto il nostro. Sto dando un indizio? No. Lia da Bergamo, buongiorno. Per me è Donald Trump, però ne avete parlato e quindi penso non sia proprio lui. È un'ascoltatrice attenta che quindi conosce un po' i meccanismi del programma. Perché si cerca, diciamo, di non dare indizi indiretti, no? Però non è detto. Però per il futuro, avvisiamo tutti gli ascoltatori della domenica, per il futuro non è detto che se noi parliamo di un personaggio venga automaticamente escluso dalla possibilità di essere il nostro vincitore. Le probabilità diminuiscono. Diminuiscono, però proprio anche questa settimana a un certo punto avevamo un dubbio su questa questione. Grazie. Grazie mille. Buongiorno. Buona giornata. Aspettiamo ancora 800 24 00 24. On in life today, people looking down though they won't say what's up, no, but we can figure out and find a way, just keep on moving forward, don't give up, no, let's go back in time, back to music of my mind, with Stevie play piano just for you, yeah, so what happened to the sounds today, I know that deep down you still love your music. And don't hide it, just sing it. Let's get it together. Cause music and that freeness of thinking is pushing us further. Gotta get up and dance, gotta get up and move. Gotta send out my message to the people. Ecco qua. Questa The Message, vi ricordiamo che tutte le nostre musiche le ritrovate sulla pagina di Si Può Fare, sul sito di Radio 24, siamo molto orgogliosi delle nostre playlist perché stiamo parlando di un comune nel quale stanno sperimentando un nuovo modo di comunicare con i cittadini, l'amministrazione che parla con i cittadini attraverso messaggi di WhatsApp, un'idea credo unica nel suo genere. Noi abbiamo convocato per parlarne l'assessore Ilaria Bozzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buona domenica, assessore, alla comunità trasparente, si dice così, e alla comunicazione. Sì, esatto. Comunicazione, partecipazione e trasparenza. Sono delle deleghe un po' anomale, soprattutto in un piccolo comune di 4.500 abitanti. Esatto, quindi circoscriviamo, comune in provincia di Genova, giusto? Esatto, in provincia di Genova, nel Golfo Paradiso, nella riviera di Levante della Liguria. Quindi già siete partite bene, insomma, partite avvantaggiati. Direi di sì. E vi siete inventati questa cosa per favorire la comunicazione tra cittadini e amministrazione. Ma in quale senso? Da comune verso cittadino o il contrario? Entrambi i sensi, nel senso che abbiamo deciso di, per la prima volta, nel senso che è un po' raro a volte che le amministrazioni diano risposte, di dire di provare a realizzare un servizio bidirezionale. Quindi noi mandiamo comunicazioni di pubblico interesse, di protezione civile, allerta meteo, piuttosto che gli appuntamenti e gli eventi della settimana, e i cittadini invece possono mandarci dei messaggi, magari anche con delle foto, in cui ci segnalano magari le criticità presenti sul territorio, dalla buca al lampione spento, ai giorni corretti del conferimento per la raccolta differenziata. E quindi devo dire che sta andando bene, abbiamo iniziato da una settimana e abbiamo già ricevuto tantissime iscrizioni, cosa che non mi sarei mai immaginata. E quindi funziona un po' come tutti i gruppi su WhatsApp, dove si è tutti connessi uno con l'altro? No, assolutamente no, perché sarebbe stato ingestibile. Ecco, no? Ma infatti noi eravamo incuriositi da questo. Vabbè che non siete molti, però. No, esistono delle liste che si chiamano broadcast, sì, che tutelano la privacy, e quindi praticamente, okay, come le mail in copia nascosta, i vari membri del gruppo non si vedono, non dialogano tra di loro, esatto, ma direttamente con voi. Ma quindi uno fa una domanda e chi risponde è solo l'amministrazione, non è che rispondono anche gli altri utenti, è così? Esatto, rispondono soltanto appunto gli amministratori del gruppo. E uno può fare anche domande del tipo: a che ora apre l'ufficio comunale di via Garibaldi? Ecco, purtroppo l'altro giorno ci hanno scritto l'autobus è in ritardo, ecco. E lì non sapevo cosa fare. doveva dire passo io. Mi dia l'indirizzo, vengo a prenderlo. Ci vuole un po' di moderazione. Noi abbiamo, giusto, anche scritto una policy che si trova sul sito del comune, sì, quindi i cittadini quando si iscrivono aderiscono anche a questa policy, che appunto prevede la risposta soltanto in casi appunto in cui ci sia un effettivo bisogno. Senta, assessore, io so che lei tra l'altro nella sua vita professionale è social media manager, quindi di queste cose si occupa un po', ne sa, sì. È vero che però vi siete fatti anticipare d'un soffio da Ancona, che ha sperimentato Ancona, questa cosa? Ancona, sì, Ancona è già partito, ma in realtà c'è anche il comune di Iesi, ad esempio, perché, sì, io mi sono iscritta ai loro gruppi per vedere prima come venivano utilizzati anche da loro, sì. E quindi sì, beh, sono comuni più grandi, perché in effetti avranno anche gli uffici preposti, immagino. Da noi funziona un po' diversamente, nel senso che un piccolo comune è già tanto se ha le risorse per avere un ufficio tecnico, per avere tutti i vari uffici che quotidianamente danno servizio alla cittadinanza. Però mi spiega come funziona il servizio visto dalla parte del comune, cioè c'è un dipendente, c'è lei assessore, chi c'è che risponde? C'è uno che sta lì apposta a rispondere a tutti i messaggi, talmente ne arrivano tanti, oppure diciamo con tempo che avanza c'è qualcuno che si occupa di dare queste risposte ai cittadini, un tuttologo del comune, bisogna sapere tutto. No, allora, in questo momento il cellulare lo tengo io, però abbiamo installato WhatsApp web sui computer degli uffici, e in modo tale che il geometra dell'ufficio tecnico, piuttosto che l'architetto dell'ufficio ambiente, riescano a controllare anche loro le segnalazioni e poter rispondere. Quindi se hanno delle domande particolarmente tecniche o difficili, lei, assessore, chiama il geometra e dice guarda WhatsApp su PC. Esatto, comunque lui ogni tanto se lo guarda già in autonomia. Che tra l'altro ogni è molto importante, perché il fatto che ci sia anche la possibilità su PC, almeno hai un geometra che può risponderti con una tastiera, se no deve risponderti con il suo telefonino, e che è molto difficile e più complicato. Appunto, abbiamo fatto un corso apposta di social network per alcuni dipendenti del comune, fra cui anche gli operai, ad esempio, perché di loro volta dovranno anche loro segnalare i vari lavori che vengono realizzati da loro, e poi noi pubblichiamo ad esempio anche sulla nostra pagina Facebook, e quindi abbiamo fatto una specie di corso per i dipendenti che comprendessero appunto l'utilizzo dei social, da Facebook a YouTube. Ora, questa cosa, che fra l'altro è quella che è uscita anche sui giornali, i dipendenti municipali a lezione per gestire WhatsApp, è curiosa, perché se a seconda del pubblico a cui ci riferiamo, se pensiamo a degli under 30, fare un corso di WhatsApp, dici ma di che stai parlando? Lo tengo io il corso, vado all'università a insegnare. Quindi vuol dire che i vostri dipendenti sono tutti over una certa età? Sappiamo che l'età media comunque del dipendente pubblico non è proprio bassa, E quindi sì, avevamo bisogno di fare un corso. Come siete messi voi come età media? Ma come età media io direi una quarantina di anni, di 40 in su. E quindi insomma il quarantenne di Sori non sa proprio benissimo come funziona WhatsApp se è un dipendente pubblico. Magari non WhatsApp, perché appunto WhatsApp ormai è entrato nelle case, nei telefoni di chiunque, quindi è più facile. Però già gestire Facebook in maniera ufficiale con una pagina istituzionale, in effetti secondo me merita un corso alle spalle, perché non tutti sono in grado di farli. Ma di sicuro, vogliono la pagina Facebook, di magari pubblicano e non è anche in grado di rispondere. Più pericoloso la sentiamo a tratti, assessore, io glielo dico, perché è come se fosse entrata in un anche perché è il colmo per un social media manager e non avere campo, direi. Quindi succede anche questo. No, ma a proposito di questo, nel senso che io ho letto, lei nasce social media manager, giusto? No, io nasco, laureato in giornalismo, poi un po' di ufficio stampa e poi sì, adesso mi sto specializzando in questo che mi piace particolarmente. Esatto, no, perché mi sembrava interessante, nel senso che non si vergogna di essere una social media manager, perché in realtà dopo tutta questa polemica con Michele Serra, che ha scoperto l'altro quale ieri polemica? Che illuminaci. Esistono in una marca, Michele Serra attacca, diciamo, i social media manager dicendo: ah, non sapevo che esistesse una professione, che sono quelli per esempio che scrivono su Twitter di Gaspari, no? Tutto nasce dal fatto che Gaspari ha incolpato per il chiesimo famoso, invece al posto di Chiedemmo ha incolpato il suo social media manager, il quale si è dimesso. Però in realtà la cosa che le volevo chiedere, siccome in realtà il social media manager è una professione, va compreso che e infatti bisogna studiare per diventare social media manager, cioè pensare che i social siano semplicemente un gioco e non siano invece un pezzo fondamentale della comunicazione e in questo momento anche della battaglia politica, perché è sui social che poi si fa la battaglia e si fanno si creano le condizioni per le elezioni e per le amministrative e per tutte. Quindi le chiedevo che cosa risponde a Michele Serra, che appunto oggi scopre i social media manager e pensa che siano una professione così per qualche ragazzino. Cioè, Carlo le sta chiedendo se lei è preparata per fare tutto questo. No, ma è preparatissima. Sì, assolutamente. Io dicendo che se non si fanno usare i social network si creano davvero dei disastri, nel senso che ad oggi appunto vediamo qualsiasi cosa in televisione, siamo bombardati dai tweet, da tutto ciò che anche i politici scrivono utilizzando sui social. E un minimo di competenza, secondo me, anche in questo bisognerebbe averla. E per questo che nascono queste figure professionali, non per altro. Certo. Quindi no, secondo me sono molto utili, anzi. Sì. Va bene, complimenti, assessore, per questa originale iniziativa che sicuramente avrà un seguito anche altrove e avrà successo, credo, perché l'utilità di poter chattare con il comune, col proprio smartphone, non è male. Pensa cosa potrebbe succedere a Roma, una roba del genere. Cioè, i milioni di messaggi sui milioni di buche che ci sono per strada. Non so se conviene farlo in una città come quella. Grazie, in bocca al lupo. Grazie mille, buona giornata. Grazie. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua con i vostri interventi, cari ascoltatori. Abbiamo Giovanni che chiama da Torino. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono un po' emozionato. Comunque, secondo me... Tranquillo, Giovanni. Sereno. Non c'è problema. Grazie, non ti ascolta nessuno. Siamo noi tre. Grazie, grazie. Secondo me è la Francia, con Hollande sotto attacco per via degli scioperi che ci sono... Ci sono stati degli scioperi importanti in settimana scioperi. Perché la Francia ha messo in campo una legge che qualcuno ha definito il Jobs Act francese, se ricordo bene. Questo è il tema per cui è sotto attacco, ma non era lui il personaggio. Non era lui, è che stavo pensando che devi essere un nostro ascoltatore assiduo, perché sai che noi a volte il nostro personaggio non è per forza una persona, ma per esempio può essere una nazione o anche un oggetto. E quindi ti facevo i complimenti, ma non è il nostro personaggio di questa settimana. Attilio dalla provincia di Arezzo, buongiorno. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ecco. Secondo me Serraj, non so se si pronuncia così. Serraj, il leader libico che ha che è sbarcato in Gomone, in Libia, per sostenere il suo governo. Insomma, detta così fa abbastanza ridere, il leader libico è sbarcato in gommone, ma in effetti è quello che è successo. Sì, loro sono arrivati via mare dalle parti di Tripoli, poi sono stati costretti a stare in attesa prima di sbarcare, perché a Tripoli stavano festeggiando con delle schioppettate per aria, chiaramente non erano dei veri e propri festeggiamenti, e poi dopo è riuscito a toccare il suolo libico, è un personaggio sicuramente a insediarsi di questa settimana, molto molto importante. Vedremo quanto durerà questo governo, perché molti hanno dei dubbi, però se lo chiedono tutti. Non era lui il personaggio, in effetti. Anzi, però, grazie a Tilio, perché anche questa è una notizia che andava assolutamente ricordata, poteva essere anche questo un trappolone. Nicola da Bari. Sì, buongiorno. Che non è uno scherzo, no? Beh, no. No, no, assolutamente. Non è che ci canta qualcosa? No, no, non ho una bella voce, anche se canto in un coro, quindi... Ah, però... Sì, sì, mi camuffo con gli altri colleghi, allora riesco a stare nel coro. Possiamo fare una chiamata, una conference call con tutto il coro la prossima volta e ci cantate qualcosa. Sarebbe bellissimo, sarebbe bellissimo. Senta, buona domenica intanto e complimenti. Grazie. Sempre per la vostra trasmissione. Io ho pensato all'onorevole Boschi. Maria Elena Boschi, certo. Sì, sì, sì, certo. Perché praticamente, a parte l'ultimo caso della telefonata dell'intercettazione con l'ex ministra, praticamente lei è sotto accusa anche per il fatto che il fratello Boschi Junior, cioè Pier Francesco Boschi, è stato assunto dalla CMC e quindi praticamente... l'opposizione e altri politici li hanno messi, anche i giornali l'hanno messo sotto accusa per questo. Sì. Ecco. Assolutamente ha favorito, sì. Assolutamente. Ha favorito il fratello. Sì. No, ma anche per la questione Guidi, per esempio, perché l'ex ministro dello sviluppo che si è dovuta dimettere per lo scandalo del petrolio, certo, il compagno coinvolto. C'era anche Mariana Boschi nelle telefonate, era citata, a dire la verità. Citata, qualcuno... lei giustamente si difende dicendo sono il ministro, non... quindi tutti gli emendamenti devono essere approvati da me, però diciamo l'attacco nei confronti della Boschi non ci giunge nuovo, nel senso che parte da lontano, direi, è sotto attacco da un bel po'. Oggi ci divertiamo molto con gli ascoltatori, sono arrivate tantissime telefonate. Verissimo. Per questo personaggio, c'è un sacco di gente sotto attacco, non era lei. Non era lei, ci spiace doverlo dire, ma è così. Non chiudiamo è lei. Questo blocco con Giorgio da Lecce. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti alla trasmissione. Grazie. E se non indovina, sì, Giorgio, daremo un altro indizio. Io glielo dico, quindi lei è l'ultimo che può beneficiare di soli due indizi. Solo due indizi. Giorgio, prego. Allora, io ci provo con Antonio Conte da Lecce. Antonio Conte da Lecce come lei. Perché? Beh, perché il nazionale non è riuscito a raggiungere, diciamo, non sta riuscendo a raggiungere, diciamo, per quelle quattro palline prese con la Germania, anche se vogliamo. Anche per quelle quattro palline, e poi perché comunque ha dirottato, tra virgolette, i propri interessi all'estero. Ha già deciso che non sarà l'allenatore della nazionale dopo gli europei. Questa espressione non è male, ha dirottato tra virgolette i propri interessi all'estero. Lei ha usato un'espressione molto anche pulita, da un certo punto. Sembrava quasi un'espressione da Equitalia, volevi dire, Alessio. Sì, anche perché voi, il nazionale all'inizio, se ricordiamo bene, lui si lamentava di aver, diciamo, ridotto il proprio ingaggio, di aver venduto anche i propri diritti d'immagine. Vero. Sì, devo dire che io comprendo però la frustrazione che hanno sempre i CT della nazionale, perché durante gli europei, durante i mondiali siamo tutti a tifare Italia e vogliamo che l'Italia sia fortissima, poi durante gli anni che passano in mezzo comunque ognuno è interessato al proprio club e non ha nessuna intenzione che i propri giocatori vadano a giocare né le amichevoli né che si allenino né che si occupino della nazionale, sì. E così è un po' troppo facile, nel senso che durante l'anno ti occupi della tua squadra e poi devi essere bravissimo in quelle due settimane in cui devi andare a giocarti gli europei o i mondiali. È verissimo, però è vero anche che ci potevi pensare prima, perché ormai si sa che è così la nazionale. Ci ha provato però lui a cambiarla. Doveva spendere il suo carisma di più per cercare di cambiare questa situazione che fa male a tutti gli italiani, perché la nazionale, per chi segue il calcio, ma anche per chi lo segue un giorno sì, un altro no, è un po' l'ultima cosa a cui ti aggrappi. Esatto. Invece vederla naufragare così con giocatori che sono la quarta scelta di squadre di media classifica è triste. Su questo momento di mestizia ci fermiamo e andiamo sul traffico. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia competere nel mondo. Vi presenta... si può fare. Cronache da un paese migliore. Che paese arido però che siamo, raga. Siamo un paese arido, algido, siamo cattivi. Una non può nemmeno fare un regalino al fidanzato che si deve dimettere. Povera Federica Guidi. Belì, che coppia, guarda che coppia. La Boschi e la Guidi. Una dicono che abbia aiutato la banca del papà, l'altra la trivella del fidanzato. Ora io dico, sembra Italia's got parent. Allora, e poi questa settimana c'è stato Maria Era Crozza questo. Ricordiamolo. La Gelmini che si candida a Milano come capolista a sostegno di Parisi, ha attaccato la giunta in carica di Giuliano Pisapia perché fa troppe multe. Basta multe. E che è, ecco, tutte queste multe, cittadini vessati dalle multe, è una cosa insopportabile. Chi non si incavola tantissimo quando riceve una multa? Però l'hai visto il video? Si è fatto fotografare davanti a tre auto ha in fatto sosta un video dove era davanti a, un davanti a tre macchine in sosta vietata senza multa, sì. E lei che continuava a dire, a sostenere che a Milano si danno troppe multe. E io voglio, prima parlavamo di social media manager, esatto. Ma chi è il suo social? E che io voglio conoscerlo, che va a consigliare alla Gelmini di dire in questa città danno troppe multe, tu ti metti davanti a tre macchine senza multa che sono evidentemente... Poi forse erano le loro, io questo non lo so. Cioè, se una macchina è davanti a un passo carraio e parcheggia, cosa dovrebbe fare il vigile? Fa finta di nulla. Esatto. Poi arriva quello che deve entrare e dice no, ma non, giustamente non hanno fatto la multa perché a Milano si fanno troppe multe. È questo che voleva dire la Gelmini? Cioè, troppi. 10.000 multe al giorno, tutto questo è inaccettabile. Noi vogliamo un traffico fluidificato e gli autovelox solo dove c'è veramente bisogno, non multe per fare cassa a danno dei milanesi. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I c'è movimento qua in regia, ma anche qua in studio, perché si balla. Sono 49 minuti, ci stiamo svegliando. Sta iniziando il nostro weekend, Alessio. Esatto, sta iniziando il nostro weekend che inizia alle 10:05 di domenica mattina, quando finalmente siamo liberi. No, finalmente noi vorremmo stare qua tutte le mattine, tutti i pomeriggi, sempre la sera, la notte. Allora, anche in questo caso Wake Me Up, per sottolineare una... storia che è sempre a Milano, siamo a Milano, rimaniamo a Milano. Ci sono un gruppo di donne che stanno insegnando ad altre donne a recuperare un pezzo della loro storia, dei loro diritti anche, della loro dignità, che ha a che fare di nuovo con la bicicletta, mamme in bici, perché ci sono donne, spesso donne straniere, che nelle loro culture, nei loro paesi d'origine non possono andare in bicicletta perché è sconveniente e quindi non hanno imparato e non sanno andarci in bicicletta. E ci sono delle grandissime donne italiane che le stanno aiutando. E non solo. Nancy Bocture, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Mediatrice linguistica, originaria egiziana. Sì, egiziana. Ha vissuto anche in Algeria, giusto? Sì. Adesso in Italia da quanti anni? Da circa 17 anni. Sa andare in bicicletta? Io sì, perché andavo da piccola in Algeria. Vedi, perché sono realtà che non si possono generalizzare, però... Ci sono delle donne che non sanno andare in bici, ma non perché non hanno mai imparato, perché gli è stato impedito, è vero? Sì, perché in alcune società, per esempio in Egitto, specialmente al sud, le donne in bici vengono viste non a buon occhio, quindi rischiano anche di ricevere delle, tra virgolette, molestie verbali da parte degli uomini, vengono visti a malocchio, che non, che non rispettano la cultura, che non rispettano diciamo così, le regole della società. Ma perché, cosa si dice per esempio in questi posti, in questi paesi, di una donna che va in bici? Diciamo che la donna, finché è bambina ancora, può andare in bici, può imparare ad andare in bici. Una volta è diventata donna, non può andare, perché magari questo evidenzia di più il movimento del corpo, e che comunque la donna non è uguale all'uomo, alcune cose possono fare gli uomini, le donne no. E per questo noi in collaborazione con l'associazione di Mamme a Scuola, che organizza corsi di lingua italiana principalmente, sì, per accompagnarle verso un percorso di cittadinanza attiva, e con l'associazione Ciclo Bride abbiamo proposto questo corso per le mamme, che ha un valore, che ha anche un grandissimo valore simbolico, oltre che un valore di veramente di insegnare. A parte che vi dobbiamo mandare la nostra Claudia Schiattone, la nostra autrice, redattrice di Si Può Fare, perché ci ha rivelato che lei non sa andare perché in bicicletta. Perché ci sono anche italiani e italiane che non sanno andare in bicicletta. Magari non è perché gli è stato impedito, ma esatto, per pigrizia, proprio, o per paura, non lo so. Ve la possiamo mandare? Sì, sì. Anche perché la notizia è veramente stupenda, questo fatto, se devo dire, perché molte volte non ci si accorge di quale sia il problema, nel senso che uno dice non vanno in bicicletta, chissà come mai, magari alcune donne si vergognano a dire che a 30 anni uno non sa andare in bicicletta, e quindi trovo lo trovo invece bellissimo, perché in fondo che ne so, però, io non so cucinare le zucchine, e quindi qualcun altro non sa andare in bicicletta e non c'è nessunissimo problema. Mi sembra molto bello che voi vi siate focalizzate, sì, abbiate trovato qual è il problema. Poi diventa anche divertente, immagino, mettersi a imparare ad andare in bicicletta tutti insieme. Sì, sì, alcune hanno detto che le dà un senso di libertà, e anche le famiglie poi hanno apprezzato alla fine il fatto che la mamma e i figli vanno adesso con le mamme in giardino in bici, e sono contenti, vedono le mamme con un altro occhio, la mamma che ormai aperta e alla cultura italiana, che è disposta a inserirsi, integrarsi, visto che non sta facendo niente di male, comunque ci mancherebbe, un abbigliamento adeguato. Ma gli mettete anche le rotelline? Scusi? Gli mettete anche le rotelline per imparare? Perché mi sembra bello avere una figlia che vede la propria mamma che va ancora con le rotelle, e quindi gli dice: mamma, guarda che ti tolgo le rotelle. Non diventare insolente. No, la tecnica era di togliere i pedali, poi finché trovano l'equilibrio poi mettono i pedali. Le rotelline no, non mi sembra abbastanza. Allora, io voglio ricordare anche questo, voglio ricordare questo, Nancy, che le allieve di Mamma in Bici apriranno il corteo del Ciclo Pride Day di quest'anno, la pedalata pubblica, esatto, che ci sarà il 15 maggio, tra un paio di mesi, quindi, per cui complimenti, bellissimo progetto, grazie. Grazie a voi. È andata grazie avanti così. Chi magari sta ascoltando da altre città, che può essere toccato da questo argomento, prendete spunto, organizzate dei corsi per le mamme in bici, mamme straniere, donne straniere, anche nelle vostre città. È il momento di dare la parola a Bruna, che chiama da Bergamo. Buongiorno, buongiorno. L'ultima ascoltatrice pronto, di buongiorno oggi, l'ultima chance per il personaggio. Senta, vai. Approfitto, intanto la buona domenica. Sì, però abbiamo un minuto, Bruna, devi dire tutto in un minuto, forza, via. Approfitto per dire che ci vado anch'io in bicicletta. Brava, ottimo. Capace. No, non sono capace. Sulle mani, corso anche sulle mani per Bruna, che rivela di non essere capace. Bruna. No, senta, allora io pensavo a Trapattoni. Perché? Perché hanno fatto una petizione per ricevere il contratto. Il contratto con la Rai. È tornato a fare il telecronista durante la partita della nazionale con la Germania. Gli è scappata una mezza parola, lo vogliono licenziare, e quindi noi siamo scesi in difesa di Trapattoni, abbiamo eletto personaggio della settimana. Oh, perché... è la prima volta che telefono a Radio 24, sai, che riesco a prendere la linea. Perché in effetti la telecronaca è stata anche apprezzata dal punto di vista tecnico, quindi mandarlo via solo perché gli è scappata una mezza imprecazione ci è sembrato esagerato. Brava Bruna, complimenti. Biglietti, complimenti. Il catalogo di Miró al MUDEC di Milano. Noi chiudiamo. Io volevo solamente ricordare che il mio book tour continua di Fossi in te io insisterei, e settimana prossima il 5 aprile sono a Udine, il 6 aprile sono a Trieste. Grazie ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli e Carmelo La Rucella. Ci sentiamo sabato prossimo alle 7:30. Buona domenica da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini, anche a chi ci ascolta in podcast. Ciao.